La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, un buon sabato, una buona serata da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea in versione un po' ridotta, perché insomma, ubi maior minor cessat, il presidente c'è una volta ogni tanto. Noi qui alla Rosa Purpurea è la seconda volta, le ultime due che lo becchiamo il sabato, come fu anche per Napolitano 2 anni fa. Ma insomma, l'importante è esserci e raccontarvi tutto il cinema che c'è, anche se per questa volta in mezz'ora. Quindi non perdiamo tempo, concentriamoci su quelle che sono le uscite di questo fine settimana, perché sono numerose e sono anche piuttosto interessanti e variegate, almeno 3 film direi che vale la pena salvare. Cominciamo con chi ama la pittura, i pittori, chi ama l'arte vista al cinema, che è un filone, un genere anche a sua volta cinematografico. Ebbene, arriva nelle sale un film che racconta la storia di un grande pittore come Turner, e lo fa con il racconto di un grande regista come Mike Leigh. Andiamo a farcelo raccontare dalla nostra Chiara Pizzimenti. Mio figlio disegnava già prima di imparare a leggere. Papà. Constable. Turner. Dipingete ancora i vostri quadretti, signor Turner? L'affettuoso rapporto con il padre, il gelido saluto al collega, l'ingenua domanda di una donna. Dialoghi e parole di Turner, il film che Mike Leigh, il regista di Segreti e Bugie e Topsy-Turvy, dedica al pittore britannico dell'Ottocento. Dialoghi e parole di altri, perché Joseph Mallard William Turner quasi grugnisce e risponde a monosillabi, agli insulti come ai complimenti. Quando mi trovo di fronte ad un capolavoro come il vostro, sono colpito dalla precisione con cui riuscite a catturare l'attimo. Chi mai farebbe una cosa del genere? Distrugge un capolavoro. È una boa. Incredibile. Bravo. La pellicola ne racconta gli ultimi anni di vita, quando era già molto affermato e ormai non più in buona salute. Racconta il rapporto con la vedova Booth, con cui vivrà, con la governante, che lo ama non ricambiata, con i committenti. Racconta la vita, non l'arte. Il momento romantico e sublime della creazione non viene spiegato in questo film, per volontà del regista, che racchiude la magnificenza di Turner nell'immagine, costruendo un film fotograficamente perfetto, grazie all'utilizzo della luce, proprio come aveva fatto il pittore. Mike Leigh racconta l'uomo, Turner, rozzo, eccentrico, insieme egoista e generoso, vittima dei piaceri della carne e ugualmente capace di grandi tenerezze, il suo lavoro, i viaggi, l'osservazione del mondo. A interpretarlo è Timothy Spall, premiato a Cannes e ingiustamente non candidato all'Oscar. Leigh lo ha scelto, senza quasi doverci pensare. È un grande caratterista con cui ho lavorato a lungo. In secondo luogo è londinese e appartiene a una famiglia della classe lavoratrice. Pensavo che potesse cogliere l'animo di Turner. E poi è molto bravo nei personaggi ottocenteschi, ha grande conoscenza di Dickens, per esempio. Sapevo che era un pittore, seppure a livello amatoriale, e gli abbiamo fatto studiare pittura per 2 anni. Infine, è noto per avere una barca, ha un lato marittimo, importante per rappresentare un grande pittore di marine. Se l'eccessiva perfezione può essere un difetto, è uno dei pochi attribuibili a questo film, che racconta il rapporto conflittuale tra un comune mortale e la sua arte. Lo fa con il metodo di Mike Leigh, attori che formano da anni quasi una famiglia con il regista, personaggi approfonditi e studiati, come studiata è l'arte di Turner, e insieme il suo carattere indipendente, simile a quello di chi è dietro la macchina da presa. L'universo è caotico e voi ce lo mostrate. Siete un uomo molto acuto, signor Turner. Allora, questo era Turner, il film con cui abbiamo aperto La Nostra Rosa Purpurea. Timothy Spall davvero eccezionale nel ruolo del protagonista. Adesso giochiamo insieme, perché è pur in versione ridotta e i nostri 2 momenti per indovinare il film misterioso della settimana non mancano, a cominciare da questo. Lo so, siamo tutti poca cosa di fronte all'universo e suppongo che il massimo che uno possa sperare è di fare qualche volta la differenza. Ma io quando mai ho fatto la differenza? E allora, è un brano che avete riconosciuto? Se sì, scriveteci alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo di questo film, di qualche anno fa, e il vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle 2 copie in Blu-ray di questo film, di cui vi faremo ascoltare un altro frammento fra poco. Allora, cambiamo argomento, parliamo di Unbroken, il film di Angelina Jolie, regista, con un cast che svaria da Jack O'Connell a Domhnall Gleeson, che racconta una storia incredibile sotto certi aspetti, ma spesso la vita è più incredibile, la vita reale è più incredibile delle storie. Luis Zamperini, un campione di mezzofondo americano, figlio di immigrati italiani, che corse le Olimpiadi di Berlino del 36, che venne reclutato per l'aviazione nel 42 durante una missione per l'aviazione americana, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico il suo aereo precipitò, sopravvissuto, dovette resistere in mare per quasi 2 mesi, cibandosi di pesce crudo, insomma, e schivando i colpi dei mitraglieri giapponesi. Insomma, ce n'è davvero tanto, talmente tanto che va gestito bene come materiale cinematografico. Angelina Jolie, che è sicuramente una donna che ha voluto dare un taglio di impegno civile al suo modo di approcciare il cinema, anche come regista, a prescindere poi dai risultati, ci prova tra l'altro con un parterre de roi a livello di staff tecnico realizzativo, che va dalla sceneggiatura dei Coen alla fotografia del fotografo dei Coen, Roger Deakins, alle musiche di Alexandre Desplat, e tutto questo diventa un film che, di cui sentiamo adesso una piccola clip e di cui discutiamo fra poco con Boris Sollazzo. In America dicono Zamperini morto. Dicono alla tua famiglia che sei morto in guerra. NBC dice all'America che il famoso corridore olimpico Zamperini è morto. Vuoi dire a tua famiglia che non sei morto? Questi gentiluomini lavorano per Radio Tokyo. Abbiamo un programma trasmesso in tutto il mondo. Si chiama Postman Calls. Ecco, già il film doppiato in italiano in queste parti, in questi momenti, sfiora un filino la comicità involontaria, sembra quasi una commedia degli anni Ottanta. È con noi Boris Sollazzo, ciao Boris. Buonasera a tutti e benvenuto Presidente. Facciamo benvenuto Presidente, esatto, l'abbiamo detto, anche se ci ha portato via un po' di spazio, ma insomma lo merita assolutamente. Allora, Boris, dicevo prima, gli ingredienti c'erano tutti, e già il fatto che usi il passato dovrebbe far capire qualcosa. C'erano tutti. La Jolie, quando si mette a fare cinema, prova a raccontare comunque delle storie che lasciano qualcosa. Mi sembra che in questo caso però il materiale fosse davvero così tanto e così strabordante da avere bisogno o di qualcuno con una mano più ferma, decisa e asciutta, o per opposto, per paradosso, di qualcuno che la facesse volare più di così. Non hai assolutamente torto. Secondo me non bisogna essere troppo cattivi verso questo film, perché secondo me a molti di noi porta a conoscenza una storia che davvero non immaginavamo e che è davvero affascinante. Io devo ammettere, parto dalla fine questa volta con la mia recensione, che nonostante la non eccelsa qualità del film, e diciamo che uso un eufemismo, la voglia di informarmi su Luis Zamperini, di informarmi sulla sua parabola di vita, di cercare dei libri che ne parlassero, mi è venuta e l'ho soddisfatta. E quindi in qualche modo comunque il suo compito lo ha fatto Angelina Jolie. Angelina Jolie, quello che colpisce è che è davvero estremamente datata nel cinema che vuole fare. Uno si immagina una donna giovane che ha comunque grandi idee, che ha lavorato soprattutto con autori innovativi, lo stesso Clint Eastwood, che insomma in Giappone è andato a fare un film di guerra di tutt'altro tipo, potesse avere uno sprint in più. Invece lei lo racconta come il più classico dei film di guerra, dei film cristologici, con un grande eroe e tanti cattivi. Qui i giapponesi sono tutti sadici, antipatici, poi col doppiaggio italiano diventano anche comici. In questo senso, ecco, il film non ti regala niente di nuovo, ti racconta la storia come se fosse un riassunto molto semplicistico, E però forse Zamperini vale il prezzo del biglietto, lui, non certo tutto quel ben di Dio che c'era nel cast tecnico, cioè Angelina Jolie alla regia, ma soprattutto praticamente tutta la famiglia Cohen parentale e professionale che si è messa al servizio della Jolie. Diciamo che quello è sicuramente uno spreco. Ecco, diciamo anche che è vero quello che tu dici molto spesso, i film ci possono appassionare anche per quello che raccontano, non per come lo raccontano. Diciamo che la scommessa di un film, del cinema, dovrebbe essere anche come lo racconti, se no ci sono già i libri e ci sono anche altri strumenti. Allora Boris, in due minuti io voglio, perché oggi siamo veramente un po' stretti, voglio anche però affrontare un film che si intitola Italiano Medio, che è diretto da Maccio Capatonda e che in questi primi due giorni di programmazione, fra quelli usciti questo giovedì, è primo in classifica. Sentiamo la clip. Tu sai qual è l'unica cosa del porco che si butta? No, quale? Il pane. Senti, ma parlando di maiale, ma tu lo conosci un po'? Ci stanno le maiale? Il porcile. Ma non l'animale, le femmine buone. Ah, c'è il Just Caviale, un bel locale, figo. Però là sono soldi. Non te lo risolvo io la serata. Vieni con me. Allora, Maccio Capatonda, Italiano Medio, ancora una volta la parabola, se vogliamo, è quella dei soliti idioti, cioè si parte da un successo web, si diventa fenomeni e si viene al cinema, uno potrebbe pensare a riscuotere, però attenzione, perché Maccio Capatonda è un personaggio che non fa una comicità sterile fino a se stessa, cerca comunque di raccontare anche un po' le cose, soprattutto di puntare il dito sui difetti appunto dell'Italiano Medio, che oltre al il titolo si porta in casa anche il ruolo di protagonista di questo film. C'era un film di qualche anno fa che diceva, ma anche lo stesso Lucy di Luc Besson di qualche mese fa, e che raccontava cosa succederebbe all'uomo o a una donna se potesse improvvisamente utilizzare non il solito 10% delle proprie facoltà neuronali, ma magari il 20, il 30 o addirittura il 100. Ecco, Maccio Capatonda fa il contrario, ci porta verso gli abissi di un utilizzo veramente infimo di queste potenzialità. Mi sembra che tutto sommato la scommessa vada comunque guardata con interesse. Ma io ti dirò, secondo me addirittura il film della settimana, purtroppo temo che un giorno non verrà più visto come un film grottesco, comico, divertentissimo, qual è, ma come neorealismo moderno probabilmente. Questo mi preoccupa per quello che lasceremo noi al mondo come ricordo. Detto questo, Maccio Capatonda, rispetto ai soliti idioti e a tanti altri, mostra quello che aveva forse Mel Brooks nei momenti d'oro, cioè una cinefilia che gli consente di parodiare il paese e il cinema alla grandissima. Si pensi, diciamo, al sottotesto, alla Fight Club che c'è sotto Italiano Medio, che potrebbe essere insospettabile, insomma, per chi sentisse solamente la trama. Dall'altra parte ha un gusto per il contenuto che lo rende quasi un Pasolini demenziale del nuovo millennio. Cioè racconta l'abisso in cui siamo arrivati, con però una simpatia, un'empatia verso i più umili, i più bastonati, quasi da Lego Movie, cioè in cui alla fine forse l'uomo comune è il vero rivoluzionario, l'uomo comune è quello che può portare un cambiamento a questo paese, e non, tra virgolette, il radical chic, quello che si mette sempre dalla parte della verità e del giusto. E l'unico difetto è che quei 100 minuti, quei 90 minuti sono troppi per il respiro di Maccio Capatonda, che ci ha abituato a 4-5 minuti folgoranti, 3, anche 2, ma comunque non perde la partita con il cinema, riesce comunque a vincerla, magari in qualche momento fatica un po', però ci sono 7-8 momenti in cui cadrete dalla poltrona da ridere, fidatevi. E beh, questo è già un gran risultato. E allora, promosso Italiano Medio, che come ripeto è partito piuttosto bene al botteghino, e ancora devono arrivare i dati di sabato e domenica, quindi quelli sicuramente più sensibili. Eccoci qua, subito tornati insieme. La Rosa Purpurea, dicevo e annunciavo, parliamo di Gemma Boveri. Ora, questo è un film che ha aperto il Festival di Torino qualche mese fa, diretto da Anne Fontaine, con un cast che recita nei due ruoli principali Fabrice Luchini e Gemma Arterton. Ora, si tratta di una commedia francese di quelle che mi piace vedere, di quelle che non sfiorano ormai il cinepanettone, come capita spesso anche ai francesi, che negli ultimi anni hanno così, insomma, tutto quello che loro toccano, diciamo così, poi dopo arriva qua lo stesso, e noi, commedia francese, milioni di spettatori, a parte che in Francia vanno al cinema davvero milioni di spettatori, molti più di noi, e quindi si fa anche abbastanza presto, però insomma guardiamo anche un po' la qualità delle cose ogni tanto, e in questo caso devo dire invece che Gemma Bovary è proprio quella commedia che ci fa innamorare un po', almeno a me personalmente è successo così a Torino, del cinema francese, anche perché in questo caso vista in lingua originale e quindi con questi sapori di differenze linguistiche fra i protagonisti. Perché? Perché è la storia di una di un uomo, Martin Joubert, che ha lasciato Parigi. Lui è uno della gauche, quella illuminata, un po' borghese, un po' radical chic francese, ha lasciato Parigi ed è andato a vivere in un piccolo paesino di provincia dove fa il panettiere, una sorta di ricercare se stessi, scappo dalla città, la vita, l'amore, le vacche. A quel punto lui non ha perso sicuramente la sua grande passione per la grande letteratura e in particolare per Flaubert, che legge proprio divorandolo di giorno in giorno. Flaubert, quindi Madame Bovary, cosa succede? Che in questo piccolo villaggio arriva una coppia di giovani inglesi, lei bellissima, appunto Gemma Arterton, che si chiama, sono i coniugi Bovary, e da lì chiaramente l'immedesimazione del personaggio di Fabrice Luchini nella donna, appunto Gemma Arterton, come eroina del suo romanzo preferito, provocherà veramente piuttosto guai un po' per tutto il film, però darà anche origine a tutta una serie di scoppiettanti e raffinate battute che ti portano col sorriso sulle labbra fino alla fine. Indovinate come si chiama la coppia inglese? James Bond, McDonald's, Bovary. Lui si chiama Charles e lei Gemma. Qui, in Normandia, dove Flaubert ha scritto Madame Bovary. Io preferisco i Tre Moschettieri. Io Call of Duty. Io preferirei ti drogassi piuttosto che dire certe cazzate. E come nel romanzo Madame Bovary cede al fascino di Rodolphe, così Gemma viene colpita dal bel Hervé. E allora Boris, Anne Fontaine non è che sia proprio la regista più, come dire, simpatica del mondo, è una donna molto, come dire, un po' anche un filino supponente nei suoi modi, eccetera, però bisogna dire che questo film, almeno per me, è un meccanismo a orologeria. No, sono assolutamente d'accordo, è qualcosa di perfettamente disegnato sia nelle scenografie, sia nella sceneggiatura, nei personaggi e ovviamente nei dialoghi, che sono un po' l'essenza probabilmente di questo tipo di cinema. Colpisce che nel film ci sia un Fabrice Luchini straordinario che forse sostanzialmente riprende il discorso finito in Molière in bicicletta, che non è di Anne Fontaine, ma che comunque racconta quell'incredibile passione dei francesi registi, ma anche pubblico, per storie che attecchiscono alla letteratura, al loro patrimonio intellettuale, e hanno un patrimonio intellettuale che non è immediato. Quello che fa venire invidia per il cinema francese non è i tanti film che fanno in più, e che spesso sono anche più brutti di quelli italiani, ma è proprio questo gusto per andarsi a cercare qualcosa che fa parte del proprio patrimonio intellettuale, che noi di solito dimentichiamo. A noi capita magari con Mario Martone, che lo fa su aspetti più seri, qui ci si costruiscono anche delle belle commedie, dei bei racconti molto profondi, e devo dire che Gemma Bovary è proprio questo, probabilmente non un capolavoro assoluto, ma come dici tu, un meccanismo a orologeria dove tutto è perfetto, dove tu esci e dici ho visto una cosa veramente fatta bene. E questa è forse una delle cose migliori che si può dire a chi fa cinema. Poi c'è anche una delicatezza, quella Gemma Arterton, che davvero io trovo irresistibile come attrice, perché riesce in questo caso a assumere in sé tutto quell'erotismo di Flaubert, che qui invece è patinato da un pudore molto forte, ma che non lo rende meno efficace. Quindi veramente devo fare i miei applausi ad Anne Fontaine, ma forse ancora un po' di più agli attori, tra cui Fabio Sluvinè. Assolutamente, tra l'altro Anne Fontaine che 3-4 stagioni fa aveva firmato quel film visto anche in Italia, Il mio migliore incubo, che avevo trovato una commedia veramente, quella sì, da lacrime agli occhi, dalle risate, che potete magari recuperare in un video. Io voglio ricordare che vogliamo sapere anche cosa ne penseranno le 5 coppie di nostri ascoltatori che manderemo al cinema gratis a vedere Gemma Bovary. E allora da questo momento scrivete un SMS al 349-238-6666 con il vostro nome e cognome, con scritto Gemma, e i primi 5 che ci scriveranno riceveranno poi dalla nostra segreteria le indicazioni per poter andare in coppia a vedere Gemma Bovary al cinema. 349-238-6666. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, buon cinema. E allora, siamo quasi addirittura d'arrivo e oggi è così, però dobbiamo giocare ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Warren, spero di non disturbare. In quanto padre dello sposo, vorrei dare il benvenuto al nostro ospite. Non potremmo mangiare un po' in pace? Volevo solo far notare che siamo tutti qui riuniti come una famiglia per la prima volta. E allora, di che film si tratta? Scrivetecelo alla rosapurpurea@radio24.it. I primi due ascoltatori che indovineranno con il loro indirizzo chiaramente allegato potranno ricevere la copia in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Sentiamo invece con cosa avevamo giocato 7 giorni fa. Devi smetterla di disobbedire. Lasciami stare. Va bene, buono, calma. No, non mi calmo. Prima ditemi che c'è l'intesa. Stiamo solo proteggendo. È per il tuo bene. Non potete tenermi qui per forza. Non puoi andare via. E allora si trattava di Maze Runner, un film della scorsa stagione che insomma, come dire, va nella direzione, nel target di chi ha amato Hunger Games, per intenderci, quindi siamo su un target sicuramente giovanile che in un enorme labirinto ripercorre un po' quegli equilibri che hanno fatto la fortuna di quella saga letteraria e poi anche cinematografica, sicuramente con un filino meno di qualità per quanto riguarda il cinema, ma lo riceveranno Monica Cappetta di Calviano, provincia di Asti, e Laura Nissola di Casale Monferrato Alessandra, tutte e due in Piemonte e tutte e due a nostre ascoltatrici, le due copie in Blu-ray di Maze Runner, del quale ci facciamo raccontare qualcosa dal nostro Giulio San Giorgio, dalla redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Si esce in un video Maze Runner, che è un presto adattamento di un romanzo distopico di successo, il primo di una saga per pubblico adolescenziale, quello che insomma viene definito il fantasy young adult e che da Hunger Games in giù sta facendo veramente un successo incredibile al botteghino globale. Uno spettacolo probabilmente non per tutti, come dicevi tu, che esce in un Blu-ray veramente di altissimo livello tecnico, con un video che riesce a modulare fedelmente le tonalità anche scure del film, è un audio veramente esaltante che è caratterizzato da una dinamica potente ed avvolgente. Gli extra sono veramente un trionfo per gli appassionati, perché ci sono scene eliminate, making of, focus sugli effetti visivi, dietro le quinte, sul casting soprattutto, gag e tra l'altro anche un corto del regista Wes Ball. E allora, questo per quel che concerne il nostro game della scorsa settimana, Maze Runner. Grazie Giulio, oggi come abbiamo detto siamo di corsa, ci risentiamo con più calma la prossima settimana anche per quanto riguarda le segnalazioni TV. Le note della sigla ci dicono che siamo alla fine, non mi resta che il tempo di salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.